Questa sera ho avuto il piacere di ascoltare Ignaz Franzl suonare il violino. Sapete che non amo le difficoltà. Lui suona passaggi difficili, ma non si nota che lo sono. E si crede di poter fare altrettanto. Ha un bel suono rotondo, non salta una nota. Si sente tutto quello che suona, perché tutto è ben marcato. Ha uno staccato sicuro, con un colpo solo, sia salendo che scendendo. Non ho mai sentito un doppio trillo così. Insomma, non è uno stregone, ma un solidissimo violinista. Passiamo ad altro. L'altro giorno, l'abate Vogler, che ha fondato la celebre scuola di musica di Mannheim, ha massacrato a prima vista il mio concerto in do maggiore. Ha suonato il primo tempo prestissimo. L'andante come un allegro e il rondò veramente prestissimo. La linea del basso in modo del tutto diverso da come scritto, modificando così l'armonia e la melodia. A quella velocità è inevitabile, gli occhi non possono leggere, né le mani seguire. Decifrare così o cagare per me è la stessa cosa. E il pubblico può solo dire di aver visto suonare della musica. In cosa risiede l'arte del leggere a prima vista? Suonare il pezzo nel suo tempo esatto. Tutte le note e gli ornamenti con l'espressione e il gusto adeguati, come è scritto, così che chi suona sembra essere proprio chi l'ha composto. Non ricordo se vi ho già scritto a proposito di Aloisia, la figlia del signor Weber. Canta benissimo, ha una bella voce pura. Non le manca che l'action per tenere il ruolo di prima donna in qualsiasi teatro. Ha solo 16 anni e suo padre è un onesto tedesco che alleva i suoi figli. Il mio consiglio è che vada in Italia. Garantisco sulla mia vita che il suo canto mi farà onore. È già molto migliorata con me in poco tempo. E quanto ne approfitterà d'ora in avanti? Vi prego, fate quanto potete perché riusciamo ad andare in Italia. Dimenticavo il più grande merito di Mademoiselle Weber. Esegue i cantabili in modo superbo. Wolfgang, tutto dipende dalla solidità del tuo giudizio. Sei un giovane uomo di 22 anni. Ti manca dunque quella serietà che potrebbe impedire a un avventuriero, fanfarone, frodatore, vecchio o giovane, di ottenere la tua amicizia e tirarti dentro ai suoi progetti. Non voglio parlare delle donne, perché è lì che c'è bisogno della maggiore prudenza. E la natura c'è nemica. Ecco la lista delle nostre conoscenze a Parigi. Ti riceveranno tutte con piacere. Mio caro padre, i nobili non possono sposarsi per piacere o per amore, ma solo per interesse. Noi invece, noi poveri comuni mortali, non soltanto dobbiamo prendere una moglie che ci ama e che amiamo, ma vi siamo costretti perché non siamo nobili. Non abbiamo bisogno di donne ricche. La nostra ricchezza muore con noi perché l'abbiamo nella nostra testa. Per ora non vado a Parigi. Potrei guadagnare con degli allievi, ma non sono nato per questo genere di lavoro. Sono un compositore. Non devo né posso sotterrare il talento per la composizione che Dio mi ha elargito in tale maniera. Posso dirlo senza orgoglio perché lo sento più che mai. Leggo con sgomento e terrore la tua ultima lettera. Sono proprio perduti i momenti di felicità quando eri bambino e non te ne andavi mai a dormire senza cantarmi in piedi sulla mia sedia o ragnafi gatafà e mi abbracciavi e dicevi che quando sarei stato vecchio mi avresti messo dentro una palla di vetro per proteggermi dall'aria e tenermi sempre con te. O ragnafi gatafà. Forse una filastrocca infantile cantata da Wolfgang a suo padre. La sorella Nannerl e Nikolaus von Nissen, secondo marito di Constanze, sostengono che la melodia ha una certa somiglianza con quella dell'antica canzone epica dei Paesi Bassi, Wilhelm van Nassau. Su questo tema Mozart compose le 7 variazioni per piano K25, eseguite all'Aia nel 1766, in occasione dell'insediamento del governatore Guglielmo d'Orange.